Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi parliamo di una promessa, di una sfida direi, quella lanciata al nemico numero uno della salute di noi donne, il tumore al seno. Esiste e non guarda in faccia nessuno, ma possiamo affrontarlo e batterlo, ma dobbiamo crederci, essere pronte e attrezzarci. La prima mossa è convincerci che la conoscenza è vita e la prevenzione è cura. Accettiamo questa sfida? 800 24 0024 è il nostro numero verde. È già a vostra disposizione. Oggi di controlli, diagnosi, terapia, ma soprattutto di qualità di vita, parleremo con il professor Umberto Veronesi, direttore scientifico dell'Istituto Europeo di Oncologia, un grande medico che, sfidando il tumore al seno, ha permesso, grazie ai risultati ottenuti, a tante donne di affrontarlo e superarlo nel rispetto della femminilità e mantenendo una buona qualità di vita. Professor Veronesi, buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno a lei. In studio con noi la dottoressa Giovanna Gatti, assistente direzione scientifica e senologia dell'Istituto Europeo di Oncologia. Dottoressa Gatti, a lei devo dire bentornata. Buongiorno, grazie, sono felice di essere qua. Vi dicevo, il nostro numero verde è attivo, 824 0024, così pure il numero per inviare i vostri messaggi al 349 238 6666. Professor Veronesi, lei ha concentrato e orientato tutte le sue energie di medico, di uomo anche, di scienziato nella lotta al tumore al seno. Ha iniziato a occuparsene quando faceva così paura che non lo si chiamava neppure per nome. Adesso lei lancia un progetto che si propone l'obiettivo di sconfiggere del tutto il tumore al seno nel corso dei prossimi 10 anni. E, professor Veronesi, c'è da crederci perché lei non ci ha mai deluso. Ma cosa le dà il coraggio di fare una promessa così impegnativa? Non ha paura, professore, di fallire o di creare delle false aspettative? Dunque, certo, questa domanda è legittima. Non direi di avere fatto una promessa. Ho solamente prospettato la necessità di fare una ricerca che si basa su dei dati che abbiamo recuperato negli ultimi 10 anni di esperienza e che ci possono far pensare di poter dare una spallata, diciamo, molto importante verso la curabilità totale o, diciamo, quasi totale dei tumori al seno. Cos'è questa esperienza che abbiamo accumulato? Abbiamo, in parole povere e semplici, nell'ultimo decennio esaminato 1000 casi o poco più di donne che abbiamo operato quando il tumore non era palpabile, non era visibile, un tumore che noi chiamiamo occulto. Questi sono stati operati, e queste donne sono state operate, e osservando la guaribilità con gli ultimi dati statistici abbiamo osservato con gioia che il 99% di queste erano guarite. Allora, cosa ci è venuto in mente? Siccome questi casi erano stati scoperti non attraverso la palpazione o l'osservazione clinica, ma attraverso gli esami strumentali, che oggi sono molto migliorati, cioè mammografia, ecografia, risonanza magnetica e proprio delle indagini bioptiche con l'ago in maniera precisa e perfetta, abbiamo pensato che se teoricamente tutte le donne potessero essere sottoposte a questi esami strumentali con una certa frequenza più ravvicinata di quella attuale, potremmo risolvere forse il problema. Ma è una ricerca che dobbiamo fare. Questo è un dato retrospettivo che ci apre le porte per il futuro. Dottoressa Gatti, quindi informare le donne, renderle proprio artefici del proprio benessere, insegnando loro la cultura della prevenzione. Eppure ancora oggi molte donne arrivano tardi, troppo tardi alla diagnosi. E vorrei un suo commento come medico e anche come donna. Io cito spesso un libro che è il vincitore del premio Strega 2009, Stabat Mater, di Tiziano Scarpa. L'incipit dice: io sono la mia malattia e la mia cura. Credo che le donne debbano diventare sempre più protagoniste della propria salute. In realtà ciò che dice il professor Veronesi è drammaticamente importante, perché la diagnosi precoce sembra essere attualmente lo strumento più prezioso nella lotta al tumore al seno. Quindi parliamo di vita sostanzialmente. Le donne possono guadagnare in vita avendo la conoscenza di ciò che devono fare per la prevenzione, quindi per la diagnosi precoce. Voglio dire tra l'altro che dalle trasmissioni di Radio 24 noi in Istituto Allieo di Milano abbiamo ricevuto molte donne che, informate sugli strumenti di diagnosi precoce, hanno scoperto di avere un piccolo problema che successivamente è stato risolto. Lo dico perché l'informazione è la base per diventare protagoniste della salute. Se io non so cosa fare, certo, non lo faccio. È una questione di pura logica, qui forse la scienza c'entra poco, te lo dico da donna. In realtà devo conoscere gli strumenti che ho a disposizione, devo sapere dove trovo questi strumenti e devo sapere anche come usarli. Quindi la prima linea è senz'altro quella del medico di medicina generale, ma è fondamentale che i giornalisti come voi passino le informazioni quando ci sono. E poi soprattutto se ci aiutate voi, abbiamo, devo dire, no, la strada abbastanza spianata. Professor Veronesi, io con lei vorrei andare un po' indietro nel tempo, agli anni 70. Quando ha deciso di aiutare le donne con la quadrantectomia, era intimamente sicuro che avrebbe aiutato le sue pazienti a salvare la femminilità e anche a guarire dal tumore? Ma ero verosimilmente sicuro, perché io ho fatto il patologo prima di essere chirurgo, ero professore di anatomia patologica, e ho dedicato almeno 10 anni di esami proprio di tutti i tumori mammari al loro esordio, e ho capito che il tumore al seno non invade tutta la ghiandola mammaria rapidamente, rimane circoscritto in un lobo, in una parte molto specifica e molto ristretta della ghiandola mammaria per un lungo tempo. E il mio pensiero, la mia ossessione era quella di riuscire a convincere i chirurghi a eliminare solamente una parte del seno, quella malata, salvando la parte sana. E devo dire che questa ipotesi aveva un senso anche, diciamo, storico, perché in quel momento la mastectomia, che poi era molto mutilante allora, parlo degli anni 60-70, non solo si toglieva il seno con la pelle, il capezzolo, ma anche i muscoli, anche tutte le ghiandole mammarie, tutte le ghiandole ascellari, i linfonodi ascellari, anche se erano perfettamente sani. Quindi era un disastro, e questa aggressione e questa mutilazione era anche un deterrente. Molte donne, anche se scoprivano un nodulo molto piccolo, vivevano nel terrore di questa mutilazione e non si presentavano al medico a farsi curare. Quindi era necessaria una svolta, e la svolta è arrivata con uno studio che io ho proposto, quasi scandalizzando la classe chirurgica di allora, quella molto conservativa e che vedeva nella mastectomia un dogma assoluto. Ecco, io ho iniziato uno studio che è durato molti anni, 7-8 anni, in cui ho raccolto dati molto precisi, statisticamente confrontabili, di donne trattate con il quadrante, cioè una asportazione parziale del seno, lasciando il seno sostanzialmente intatto, e invece la mastectomia. E i risultati mi hanno dato ragione. Professore, il linfonodo sentinella poi è stato un'evoluzione ulteriore nella conservazione dell'integrità del corpo femminile. Professore, ci spiega, questa è stata davvero una rivoluzione. Come l'ha ha concepito questa idea di studiarlo? E poi immagino che in quegli anni proporre queste sfide era veramente qualcosa di coraggioso e ardito. Sì, sì, era molto difficile. Io per molti anni sono stato quasi un nemico della classe medica, non riuscivo a mettere piede in alcuni istituti americani perché considerato così, non dico un ciarlatano, ma uno molto a rischio di avere delle idee sbagliate. E quindi questo non mi ha mai depresso, io sono ostinato, e quindi sono riuscito ad andare avanti ugualmente. Il sentinella è nato, il livello sentinella è nato dal melanoma, però non dal seno. Io mi ero occupato molto di melanomi negli anni precedenti e avevo fatto uno studio molto importante internazionale dimostrando che l'asportazione dei linfonodi insieme all'asportazione del melanoma non era sempre necessaria. Questo anche di nuovo aveva gettato molti elementi di incertezza tra la classe chirurgica e lì lentamente con un bravo chirurgo americano californiano Morton abbiamo studiato la maniera di arrivare a poter decidere prima se quei linfonodi andavano tolti o meno, cioè esaminando il primo linfonodo che riceve la linfa dalla zona dove c'era il melanoma. Allora si parlava proprio del sentinella del melanoma. Questo ha funzionato, questo sistema, e nel melanoma abbiamo cominciato a non trattare più chirurgicamente i linfonodi regionali, ma limitarci a esaminare il primo linfonodo che abbiamo chiamato sentinella. E poi il passo al tumore del seno è stato facile perché, forti di quell'esperienza, abbiamo ripetuto tutto il procedimento per il seno e adesso lo si usa anche per molti altri tipi di tumori. Dottoressa Gatti. Sì, vorrei solo aggiungere che spesso la critica quando parliamo di quadrantectomia o linfonodo sentinella è che si parli solo dei casi che vengono curati con chirurgia ridotta, quindi che ci dimentichiamo le donne che ancora oggi, e sono circa il 30%, vanno incontro a mastectomia. Ciò che voglio sottolineare è che uno dei meriti, secondo me, grandi del professor Veronesi è che non concepisce alcun intervento di mastectomia senza immediata ricostruzione. Questo lo dico da donna, non da medico, perché la cura dell'integrità del corpo, quindi non la cura dell'estetica, ma del nostro essere donna, è anche l'attenzione del medico uomo che quando opera però garantisce immediatamente anche una ricostruzione qualora ci fosse la necessità di asportare il seno. Andiamo a Roma, ci aspetta Roberta, 824 0024, benvenuta Roberta, grazie. Buongiorno. Buongiorno a lei. Dunque, io sono un medico e 5 anni fa sono stata operata di tumore al seno e ho un seno perfetto adesso. Subito dopo l'intervento ho dovuto fare una radioterapia e ho affrontato l'intervento sia da sola e fuori Roma, sono andata a Milano non dal professor Veronesi ma al Policlinico San Donato e devo dire mi sono trovata benissimo. La cosa importante da dire a tutte le donne è di cercare assolutamente la diagnosi, perché io non avrei salvato sul seno se non mi fossi intestardita sulla diagnosi che ho cercato e che mi ha salvato la pelle. Grazie Roberta per la sua testimonianza. Professor Veronesi, Roberta ci manda un messaggio molto chiaro che è assolutamente in linea con quello che portate avanti da sempre all'OIEO e sta portando avanti anche la comunità scientifica. Nonostante questo c'è ancora paura. Allora lei ci aiuti a superare le paure? Questo è un processo lungo e difficile. La paura, io dico sempre che non è difficile oggi togliere un nodulo al seno, è difficile toglierlo dalla testa, dal cervello delle pazienti. Perché? Perché siamo ancora legati a dei modelli del passato, perché il cancro è stato per secoli, anzi per millenni, una malattia mortale. Per cui molte persone, anche se scoprono un carcinoma di pochi millimetri, hanno subito questa percezione interna, profonda, storica, che il rischio di morire è molto elevato. Quindi oggi bisogna fare un grande sforzo culturale per abbandonare i modelli culturali proprio del passato, per cui il cancro era una specie di malattia inarrestabile, una specie di maledizione divina che ci arrivava addosso senza conoscere né cause né cure. Quindi bisogna che la gente si renda conto che oggi sappiamo molto di più dei tumori e in particolare i tumori del seno. Sappiamo come si presentano, sappiamo come diagnosticarli, sappiamo come curarli senza interferire nella integrità corporea della donna. Ma è un processo lungo perché, ripeto, questo ricordo storico è ancora presente nella cultura popolare e quindi è un problema proprio, come diceva prima Giovanna, anche di comunicazione. È importante che proprio che il mondo dei mezzi di comunicazione, quindi i giornalisti, siano nostri alleati nel modificare queste percezioni sbagliate riferite al passato. Perché parlando di prevenzione si parla di salute, non si parla di malattia, dottoressa Gatti. Assolutamente, si parla di salute e di vita. Io ritornerei su questa frase che devo dire che anche nell'incontro dell'OIEO che abbiamo avuto prima dell'estate, organizzato dal professor Veronesi, 1500 donne riunite a raccontare le loro storie, ho avuto l'onore di essere presente come moderatrice, devo dire che per me è stata un'esperienza molto toccante. Io ricordo la frase che appunto ha riportato adesso il professor Veronesi: non è difficile togliere un tumore dal seno di una donna, il difficile è toglierlo dalla testa. Quindi c'è tutto un altro fronte su cui è necessario lavorare, devono lavorarci i medici, ma lì i farmaci non servono, ci vuole altro. E allora io chiederei ad un'amica che abbiamo in linea, Monica Guerritore. Ciao Monica, un abbraccio. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno prof, buongiorno Giovanna. Ciao Monica. Allora Monica, che cosa aiuta una donna a togliersi questa esperienza dalla testa, o meglio a rielaborarla positivamente, perché poi abbiamo fatto anche delle trasmissioni insieme alla dottoressa Gatti sulla storia, no? Una seconda vita dopo il tumore, donne che si riprendono in mano la loro vita e scoprono parti di sé che non conoscevano. Se ne seguono queste, magari i sogni si realizzano in altri campi. Monica. Non so, certo, caso a caso, individuo a individuo, ognuno l'esperienza la sente e la sedimenta e la trasforma dentro di sé a seconda del proprio carattere. Penso, per me, credo che quello che diceva il professore adesso, cioè del cambiare il senso proprio profondo della parola cancro, sia la chiave di volta. Penso che noi siamo proprio a metà del guado, no? Tra un pochino ancora resta oggi ai giorni nostri questo terribile nero che il cancro accompagna, la parola nero, proprio morte, fine, incubo, imbuto, e invece una malattia che si sa gestire, si conosce, si contrasta, soprattutto grazie alla prevenzione. Io mi sono trovata così, avendo seguito spesso molto il professor Veronesi, i suoi insegnamenti, le cose che dicevano, tutti la prevenzione, la positività, le scoperte scientifiche, avendolo seguito proprio negli anni, il momento in cui è accaduto a me, un 20% diciamo aveva ancora questo oddio, no? Questo buco nero, ma l'80% era già con il nuovo senso della parola tumore. Per questo diciamo sono scivolata più facilmente dentro questo nuovo senso, una malattia che grazie alla prevenzione si contrasta. Monica, che cosa ti ha dato questa esperienza? Non lo so, io non sento qualcosa che mi ha dato di più, non mi sento diversa da prima, non è un'esperienza che dice beh adesso sono viva e divento un'altra, oppure prima non dipingevo, adesso dipingo, prima ero sposata, adesso mi separo, cioè divento altro da me. Mi ha reso consapevole di una forza che abbiamo, perché nel momento in cui questa cosa ti viene detta, che è il momento peggiore, quando ti dicono sì è un C4, C5, cioè c'è la certezza che tu hai delle cellule tumorali, e in quel momento, non so se accade ad altre donne, ma penso di sì, c'è una forza che tu non immagini neanche di avere, che ti dà una certa relativa calma. a me non è capitato di entrare nel panico, tant'è vero che mi sono immediatamente diretta con molta determinazione alla risoluzione del problema. Ho avuto la fortuna di conoscere il professor Veronesi, di andarci subito. E quindi certo è una fortuna, anche se dico, voglio dire, è disponibile sempre per tutte, quindi non è una persona inavvicinabile, ma come lui ce ne sono tantissimi ormai di medici, e i quali immediatamente ti dicono è questo, questo e quest'altro. Ci sono delle cose, ecco, non c'è quella cosa che tu dici mi sono salvata la vita e adesso cosa faccio. Proprio perché non è più, almeno dentro la mia mente, dentro le mie cellule, non è più quella parola terribile. Forse sono già, come dice il professore, già nell'altra parte del senso della parola. Professor Veronesi, è già nell'altra parte, Monica? Sì, Monica ha spiegato molto bene la reazione di una donna, come deve essere la reazione di una donna di oggi. Perché 60 anni fa, quando io ho iniziato questo mio lavoro, avere un tumore al seno significava per il 90% la morte e per il 10% la guarigione. Oggi le cose sono esattamente l'opposto. Oggi quando si ha un tumore al seno la regola è la guarigione, l'eccezione è la non guarigione, quindi l'opposto di tanti anni fa. Il 90% dei nostri pazienti guariscono e un 10% non ce la fa e sono curate tuttavia per molto tempo, ma soprattutto noi pensiamo che questo 90% possa diventare 95%, 97%, 98%. Per questo è che noi stiamo ideando nuovi studi profondi su larga scala per migliorare ancora di più di quanto siano oggi i mezzi diagnostici, che però presuppone una consapevolezza femminile e una partecipazione femminile. Noi possiamo fare tutte le innovazioni o creare tutte le innovazioni possibili, ma se la donna non partecipa, se la donna non va a farsi vedere, non va dal medico, non va a fare la mammografia, non fa l'ecografia e così via, è tutto inutile. Tutto si vanifica. Dobbiamo cambiare testa. E siamo tornati insieme oggi in una puntata in cui abbiamo a disposizione per noi il professor Umberto Veronesi. Parliamo di tumore al seno e in linea con noi abbiamo anche Monica Guerritore, in studio la dottoressa Giovanna Gatti. Monica, tu ci hai raccontato che sei riuscita ad affrontare questo nemico, l'hai guardato in faccia, ma io so che sei diventata anche testimonial di Progetto Mortalità Zero penso che questo sia una bella opportunità, perché quando un personaggio famoso racconta una storia così privata, una storia di malattia, di lotta, di dolore ma anche di coraggio, possa aiutare tutte le donne ad affrontarlo, anche le donne, Monica, che non hanno la tua cultura, i tuoi mezzi, le tue conoscenze, la tua preparazione. Perché io vorrei, i testimonial sono sempre delle persone che funzionano molto, però l'ascoltatore può dire: certo, Monica Guerritore è una persona che può arrivare subito a Veronesi, può curarsi subito nei centri migliori. Quindi io ti ringrazio perché tu hai messo a disposizione la tua testimonianza e soprattutto guardando Monica Guerritore tante volte il messaggio, come spesso succede quando viene dato da un personaggio famoso, arriva. Allora io vorrei chiedere al professor Veronesi, qualunque, dato che è una malattia democratica, non guarda in faccia le donne, no? Non sceglie in base alla cultura, al reddito, tocca chi tocca, professore. Ogni donna oggi in Italia può affrontare in modo positivo e avere quindi buone probabilità di vittoria, può affrontare questo nemico? Ma guardi, le strutture stanno molto migliorando, gli aspetti diagnostici sono oggi abbastanza soddisfacenti nel paese, ci sono migliaia e migliaia di apparecchi di mammografia, ancora di più di ecografia, e la risonanza magnetica, che è un altro strumento importantissimo, sta prendendo piede ovunque. Quindi abbiamo la possibilità di diagnosticare precocemente una malattia, purché naturalmente una donna che è sana, che sta bene, che non ha nessuna pensiero riguardo al seno concreto, ecco, deve farsi vedere. Per perché questa è la grande trasformazione, di presentarsi dal medico quando si sta bene, quando non si ha il minimo sintomo. E allora la diagnosi che si fa proprio con gli strumenti, siamo noi andare a cercare il tumore dove non è presente apparentemente, e non più aspettare che sia il tumore a farsi vivo per poterlo poi curare. E con questa trasformazione, come dicevo, abbiamo grande possibilità di guarigione. Tutto questo naturalmente presuppone non solo la partecipazione medica del paziente, come si è detto, ma anche una preparazione medica consistente. E qui certamente abbiamo ancora molto da fare. I medici non sono tutti perfettamente allineati a questo nuovo compito, che è anche visitare, esaminare persone sane, per molti medici è un po' noioso, sembra quasi un affronto, perché il medico è abituato invece a intervenire quasi miracolosamente nei casi difficili, a risolverli con grande soddisfazione sua e dei pazienti, mentre controllare persone apparentemente almeno sane o in effetti sane nella grande maggioranza non è divertente. Dottoressa Gatti, da che età iniziamo a fare i controlli? Io indico sempre l'età di 30 anni, salvo casi di particolare familiarità, che comunque sono una minoranza. Io dico dai 30. Ogni anno. Ed è sufficiente? Ricordiamolo, facciamo ogni volta gli esami. Il professor Veronesi ha sottolineato quanto siano ormai, abbiano raggiunto dei livelli di perfezione e quindi possano diagnosticare anche dei tumori là dove noi anche con l'autopalpazione non siamo in grado di sentire, quelli occulti. Diamo una tabella di marcia. Sì, desiderabile è scoprire tumori quando non sono palpabili, lo ripeto. Dai 30 anni l'esame consigliato è l'ecografia mammaria, seguita comunque da una visita senologica ripetuta ogni anno. Credo che ogni donna possa eventualmente, se non è disponibile un'ecografia mammaria tutti gli anni con il sistema sanitario, investire in un'ecografia una volta ogni tanto. Quindi di solito indichiamo ecografia una volta all'anno seguita da visita senologica. Dai 40 anni si inizia anche con la mammografia, senza abbandonare l'ecografia. E la mammografia di solito viene ripetuta una volta ogni 2 anni tra i 40 e i 50 anni e poi diventa annuale dai 50 anni in poi. Mai abbandonare l'ecografia finché non è il radiologo a dirlo, perché esistono tumori che vengono detti ecografici proprio perché si vedono solo con l'ecografia. Monica, prima di salutarci, vuoi rivolgere, mandare un messaggio alle nostre ascoltatrici? Sì, in base a quello che ho sentito proprio adesso, tante persone naturalmente mi dicono: ma com'è possibile, dobbiamo aspettare 3-4 mesi per avere un'ecografia col sistema sanitario nazionale. Allora, sentendo adesso quello che diceva il professore e la dottoressa, penso che appunto, adesso io non so come funzioni, ma probabilmente metterlo già in cartellone, nel senso fare già la prenotazione, non quando uno ha appunto il sintomo, allora poi diventa drammatico, perché tu devi aspettare i 2-3 mesi che ti dà il sistema sanitario nazionale per andare a farti l'ecografia e la mammografia. Allora, in base a questa, dai 30 anni una volta l'anno, dai 40 anni anche la mammografia, credo che il medico di base possa indicare già e far prenotare da 3-4 mesi prima il giorno in cui tu sai che andrai a fare la tua mammografia o la tua ecografia. Questo potrebbe risolvere quell'angoscia terribile che in effetti esiste, di sentirsi, di avere quel dubbio e dover aspettare poi oppure andare privatamente. Ma no? È vero Monica. Professor Veronesi. Sì, bisogna distinguere l'attesa per gli esami quando si ha un nodulo. Allora la paziente deve essere subito esaminata nel giro di, diciamo, 10 giorni, oppure quando si fa un esame puramente preventivo, cioè in perfette condizioni di salute, allora uno può prenotare 6 mesi prima, anche un anno prima, da un anno all'altro, la propria mammografia, la propria ecografia. E non bisogna appunto creare questa, o bisogna chiarire appunto che esistono questi due livelli, che uno è la malattia sintomatica per cui è necessario intervenire immediatamente, e l'altra invece è l'assenza di malattia, semplicemente una precauzione per individuare, fortunatamente molto raramente, qualche focolaio iniziale. Ringrazio Monica Guerritore per essere stata con noi. Grazie Monica, un abbraccio, a presto. Grazie, arrivederci. Dottoressa Gatti, prima do la parola a Francesca da Monza, che è in linea con noi. Buongiorno Francesca. Buongiorno, voglio salutare e ringraziare il professore, voi e la trasmissione per questa opportunità che mi date. Volevo soltanto chiarire e raccontare il mio caso. E allora, innanzitutto una premessa: ammalarsi non è una colpa, per cui bisogna parlare di questa malattia e parlare e informarsi. A me è capitato che più di 8 anni fa mi sono ammalata al seno, ho subito una quadrectomia. Ero, diciamo, serena perché erano trascorsi ormai 8 anni e non avevo più nessun sintomo e nessuna preoccupazione in tal senso. Però ho sempre fatto i miei controlli e questo è un messaggio che voglio mandare. Nonostante sia stata sottoposta a una quadrectomia e il mio tumore era intraduttale, quindi molto facile da asportare, trascorsi questi anni però si è ripresentato, non nella stessa forma, perché non mi hanno saputo esattamente specificare se era una ricaduta o una nuova forma, forse più una nuova forma, e ho dovuto subire una mastectomia. Però nel precedente intervento io ho fatto una radioterapia per cui i tessuti si sono un po' necrotizzati e non ho quindi potuto subire una ricostruzione del seno. Mi hanno prospettato una TRAP, che il professore sa di che cosa si tratta, è un intervento un po' pesante e io non mi sono voluta sottoporre. Vivo questa mia menomazione serenamente, anche se ovvio come donna bene, sento un po', diciamo, questa menomazione, l'avverto. Volevo chiedere, oltre a fare sempre i controlli che io faccio e che ne sono ben seguita, perché qui in Lombardia devo dire i centri sono tutti molto efficienti, perché a me è stato scoperto il primo tumore che non era palpabile e ne ha pure il secondo proprio da uno di questi 3 centri che io frequento, sia sì, da una parte che dall'altra, secondo della disponibilità. Sì. Ecco, volevo sapere se c'è la possibilità di una ricostruzione anche solo parziale, senza affrontare un intervento così pesante, solo parziale, per far vedere magari un piccolo rigonfiamento che ancora, diciamo, dà l'illusione di un décolleté normale, oppure non so, se proprio bisogna affrontare un intervento così. Grazie Francesca per questa domanda. Professor Veronesi. Adesso per me è difficile dare una risposta diretta perché non conosco certo il suo caso nei dettagli. Certamente il problema che ha citato la paziente esiste, perché spesso si fa una radioterapia anche per una forma inizialissima come era la sua su tutta la mammella, e noi invece siamo favorevoli a fare una radioterapia mirata nella piccola zona della mammella dove c'era il tumore. Quindi questo è già un cambiamento che arriverà poi alla portata di tutti, e questa radioterapia che si fa ancora su tutta la mammella crea problemi in un possibile reintervento che è molto raro ma che non si può escludere. Allora abbiamo anche qui diverse soluzioni: una è quella di poter fare una mastectomia, però conservando la pelle, la cute e il capezzolo e inserendo solo una protesi immediatamente durante l'intervento stesso sotto la pelle. Però è ancora una fase sperimentale, è uno studio che abbiamo in corso. Io personalmente sono convinto che diventerà la mastectomia del futuro, cioè quando appunto per qualche caso la mastectomia è necessaria si ricorrerà a questa nuova tecnica. Adesso è tempo di andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, ma prima voglio salutare Rosanna Banfi, che è in linea con noi. Rosanna, ciao, benvenuta. Buongiorno a tutti, buongiorno professore, dottoressa Gatti. Buongiorno. Abbiamo la possibilità, anche Rosanna mette a disposizione la sua esperienza, sta curandosi, ha anche un blog che ho letto con molta attenzione, che è molto visitato, in cui anche le donne si raccontano, commentano. Ecco, ci siamo tornati. Rosanna, con te parliamo ci rivolgiamo alle donne che come te in questo momento stanno lottando contro il tumore al seno. Come stai? Beh, Bene, io in questo momento sto facendo la radioterapia, sono all'inizio, ho fatto la prima settimana e ho subito finora appunto due interventi, la chemioterapia, però fin dall'inizio, come sentivo prima anche Monica, fin dall'inizio devo dire io non ho mai visto un buco nero, non ho mai avuto questa paura della morte, perché oramai insomma sappiamo, siamo informate bene o male tutte. E devo ringraziare anche te e la tua trasmissione per aver scoperto questa mia malattia. Veramente? Sì, perché io mi ricordo di aver sentito una trasmissione sempre con la dottoressa Gatti, sai che io ti sento praticamente tutte le mattine. E grazie. Ho imparato un sacco di cose con la tua trasmissione. E si parlava appunto di autopalpazione. Io mentre stavo nella vasca mi sono toccata il seno e ho sentito questa pallina. Devo dire che comunque ero stata abbastanza negligente, perché era più di 2 anni che non facevo né un'ecografia né una mammografia. Però sentita questa pallina sono andata a farmi gli esami e dalla mammografia non si vedeva nulla. Come ha detto prima qualcuno che non ricordo, ci sono dei tumori che appunto si vedono solo dall'ecografia. Certo. Infatti a me si è visto dall'ecografia, la mammografia era pulita, sembrava non avessi nulla. Per fortuna era anche abbastanza piccola, avevo una sola metastasi, insomma, e ho fatto tutto l'iter, tutta la routine. Ora ne stiamo uscendo fuori, però il messaggio, insomma, la cosa da far passare, secondo me, è soprattutto non aver paura di questo male, perché oramai lo si può combatterlo con forza, e non vergognarsi mai, perché non abbiamo nessuna colpa di questo, non abbiamo colpa se ci cadono i capelli, non abbiamo colpa se ingrassiamo, non abbiamo colpa se veniamo operate, e qualcuna raramente, come dice il professore, in casi rari oramai si fa l'operazione totale, altrimenti grazie a lui e alla sua scoperta ci tolgono soltanto un pezzo e neanche si vede più nulla, poi si ricostruisce il seno e sta bene come prima, e perciò più che altro dobbiamo affrontarla noi donne, imparando a non vergognarcene di questa cosa, perché ci dà più forza, e perché poi soprattutto non ne abbiamo colpa. È un fatto, una tegola che ti capita in testa. Sai, Rosanna, che anche un'ascoltatrice è intervenuta dicendo la malattia non è una colpa. Allora mi piace rilanciare, no, questa considerazione al professor Veronesi, che ha visto, aiutato tante donne ed le ha aiutate anche a poco a non considerarlo una colpa, ma c'è ancora chi pensa che lo sia. Professor Veronesi. No, quello di una malattia come colpa spero o ritengo anche stia scomparendo come concetto. Questo ben dietro di qualche centinaio d'anni, quando si pensava che in effetti la malattia fosse una punizione divina per qualche improprietà o qualche colpa nei riguardi della divinità. E per molti secoli è stato così. I sacerdoti a curare i malati prevalentemente. Ovviamente oggi siamo in un mondo totalmente diverso e ci siamo resi conto che le cause dei tumori, di tutte le malattie, sono in gran parte ormai ben riconosciute, e che sono semmai i nostri processi di prevenzione che ci possono permettere di evitarle. Prevenzione alimentare, prevenzione nello stile di vita, prevenzione anche ambientale. È un problema complesso, naturalmente. Io spero che un giorno si potrà parlare di come prevenire globalmente le malattie e in particolare i tumori, ma è questa la direzione, cioè razionalizzare il problema, affrontarlo con serenità e con la forza dell'intelletto, ecco, e non con le emozioni, e quindi risolverlo più facilmente. Io Approfitto di avere qua Rosanna Banfi, il professor Veronesi e la dottoressa Gatti per oggi che abbiamo parlato del nemico numero uno della salute delle donne, parlare di un altro nemico. Il 9 e il 10 settembre il ministro per le pari opportunità inviterà tutti gli italiani a manifestare solidarietà a tutte le donne vittime di abusi e violenze. Ecco, forse la medicina, senza il forse, la medicina e la scienza hanno fatto dei passi avanti per aiutare le donne a combattere questo nemico, ma c'è questo nemico molto più invisibile ma altrettanto violento e pericoloso, che è quello che è della violenza contro le donne. Allora mi piace chiudere questa trasmissione con così raccogliendo un vostro pensiero su queste giornate importanti e su questo appuntamento che aiuterà tutte le donne che sono vittime di abuso forse a prendere coraggio e soprattutto la società a rendersi conto di questo grande problema. Dottoressa Gatti. La violenza contro le donne è una violenza spesso anche verbale che risiede in famiglia, anche nelle famiglie più insospettabili. Quindi la mia totale adesione a qualsiasi atto di prevenzione e di cura, credo che sia un problema drammatico che vada affrontato con razionalità e anche con onestà, perché bisogna ammettere che la violenza esiste in quasi, non dico quasi tutte, comunque sì, in quasi tutti i livelli sociali. Ecco, è un tumore, vogliamo, sì. Ecco, è una malattia, è un tumore che mina la società. Sì. Rosanna Banfi, un commento e poi passiamo al professor Veronesi. Assolutamente, in famiglia poi purtroppo succede spesso questo fatto, è anche qui sottolineo il fatto della mancanza di colpa della donna che si trova a subire queste violenze in casa e ne ha vergogna di parlarne. Invece io spero che questa giornata, che questo porti il pensiero a tutte le donne e porti la forza a queste donne di parlarne per uscirne fuori, perché solo insieme si possono combattere. Professor Veronesi, lei che ha aiutato le donne ad affrontare questo nemico numero uno della salute, infondendo loro coraggio, grazie anche ai risultati che lei ha ottenuto, questo invece nemico di molte famiglie, di molte coppie della donna, è molto più difficile da affrontare, ma mi fa piacere avere un suo commento a riguardo, un appello, una riflessione. Ma io sono solidale su questo nuovo movimento che mi ha visto anche attore, nel senso che abbiamo incominciato a diffondere un movimento perché le donne reagiscono a questa condizione di persistente maschilismo. Infatti, come tutti sanno, su 100 omicidi 90 sono di mano maschile, sono i maschi che uccidono perché hanno dentro di sé questi ormoni dell'aggressività, ma sul fronte opposto il 90% delle vittime degli omicidi sono donne. Quindi siamo ancora un paese dove i maschi uccidono le femmine, in poche parole. Quindi siamo tornati, per certi aspetti molto più circoscritti, a una condizione molto primordiale dell'uomo primitivo. Quindi dobbiamo reagire, dobbiamo fare in maniera che nel mondo maschile si attenui o scompaia del tutto questo bisogno di esprimere la propria violenza, che tra l'altro ormai nella società di oggi, della convivenza civile, per gli uomini anche un handicap essere così violenti, non paga più. Quindi un'altra lotta che cercheremo di affrontare insieme. Ringrazio il professor Veronesi per il tempo che ci ha dedicato. Grazie professore, grazie anche per il suo impegno. Grazie a lei dalla sua partecipazione. Un abbraccio a Rosanna Banfi, vi invito a visitare il suo blog e alla dottoressa Gatti. Grazie Rosanna. Grazie a voi. Grazie. Buona giornata, noi ci sentiamo domani. Grazie.